41. Zuppa di pane d'uovo. Questa minestra sa di poco, ma vedendola usata non di rado nei pranzi di gusto straniero, ve la descrivo. Uova numero 3, farina grammi 30, burro quanto una noce. Lavorate prima i tre rossi con la farina e il burro, aggiungete le tre chiare montate e cuocete il composto al forno o al forno da campagna entro a uno stampo liscio, il cui fondo sia coperto di una carta unta. Quando questo pane sarà cotto e ghiacciato, tagliatelo a dadi o a piccole mandorle, versategli il brodo bollente sopra e mandatelo in tavola con parmigiano a parte, dose per 6 o 7 persone.